America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. I actually think some of my dearest friends are wrong. They're just wrong. And here's why. First of all, they say that this trade agreement will cost American jobs, and they're really basing this on some past experience, looking at what happened in the 90s, over the last 20 years, as there was a lot of outsourcing going on. Barack Obama ha voluto farvi ascoltare queste dichiarazioni di un paio di giorni fa del presidente americano, dichiarazioni, come avete sentito, molto aggressive nei confronti dei suoi compagni di partito che sono contrari all'accordo commerciale TPP, cioè il Trans-Pacific Partnership, cioè un accordo commerciale per creare un'area di libero scambio nel Pacifico con una dozzina di paesi, tra cui il Giappone, il Vietnam, la Corea del Sud e così via, ma non c'è la Cina. E Obama dice: credo che alcuni dei miei migliori amici sbaglino, questa intesa dovrebbe essere una buona cosa, quindi dobbiamo soltanto farla, perché il TPP è l'accordo commerciale più avanzato, di più alto livello della storia, ci rafforzerà al di là del Pacifico, aprirà nuovi mercati a vantaggio degli Stati Uniti, soprattutto rilancerà l'occupazione. E dunque la tesi del presidente americano è che il modo per poter continuare a crescere, per dare alla dinamica della crescita più tensione, per creare nuovi occupati, occorre procedere con l'apertura delle frontiere al commercio, non soltanto, come sapete, sul Pacifico, ma anche sul fronte dell'Atlantico, dove c'è invece in negoziato il TTIP, cioè il Transatlantic Trade and Investment Partnership. Il TTIP, devo dire, viene dopo il TPP, nel senso che l'accordo sul Pacifico è molto più avanzato e manca un elemento chiave, cioè manca il cosiddetto fast track, cioè dei poteri negoziali speciali che il Congresso deve attribuire al Presidente degli Stati Uniti. Il Congresso non glieli vuole dare, sono soprattutto i democratici che resistono, sono legati al sindacato. Il sindacato teme che aprire le barriere commerciali, togliere delle protezioni, finirà per far esportare altri posti di lavoro americani all'estero e dunque si oppongono. Avrete riconosciuto Just Do It. Tra l'altro, nella dichiarazione di prima, Barack Obama aveva detto ai suoi compagni di partito Just Do It, appunto rievocando questa frase chiave di incitamento che appartiene alla Nike. Come mai Barack Obama va a chiedere di aprire le porte commerciali americane dalla Nike, che non ha posti di lavoro in America che servono ad esportare? Barack Obama è stato un po' attaccato per essere andato alla Nike, perché è vero che l'azienda americana, che ha un fatturato di 88 miliardi di dollari, ha il 56% di mercato globale, quindi in teoria di esportazioni, però la Nike produce soprattutto all'estero. E Barack Obama si è giustificato, perché erano uscite delle critiche sui giornali. Sentiamo cosa ha detto. They're the ones who make made in Oregon and made in the USA mean something, and they represent something essential about this country. The notion that if you've got a good idea and you're willing to work at it, you can turn that idea into a business, you can grow that business, eventually who knows what might happen. Ecco, parlando dalla sede della Nike a Beaverton in Oregon per promuovere appunto il TPP, Obama dice: Nike è l'essenza di questo paese, se hai una buona idea hai la possibilità di farla crescere e questa è la promessa americana e dobbiamo mantenerla viva. Ecco, di nuovo i critici dicono: benissimo, però qual è la sostanza delle cose? Che la Nike in America dà lavoro a circa 26.000 persone, ma la produzione è interamente fatta all'estero, la gran parte della produzione è fatta in Vietnam e la stragrande maggioranza degli occupati, pensate quasi 1 milione di persone, tra terzisti e dipendenti diretti della società, sono all'estero, quasi 1 milione di persone contro i 26.000. Dunque in apparenza poteva non sembrare l'esempio migliore da portare ai suoi compagni democratici per cercare di incoraggiarli a farsi dare questo fast track. Attenzione, i repubblicani sono in parte favorevoli, in parte contrari, ma per altre ragioni. Io credo che alla fine Barack Obama riuscirà a spuntarla, riuscirà ad avere il fast track. Questo è nell'interesse degli Stati Uniti, ma è nell'interesse della comunità mondiale, perché il commercio aiuta. So che ci sono molte resistenze su questo fronte anche in Italia, sono resistenze che spesso derivano dalla mia miopia, dalla paura, magari dalla paura per prodotti che possono essere modificati geneticamente, ma insomma non bisogna averle queste paure, perché poi il mondo va avanti e meno barriere commerciali ci sono, meglio è. Per esempio la Nike deve pagare il 20% sulle importazioni di scarpe in America. Perché? Per proteggere la New Balance, che è l'unica azienda di scarpe rimasta in America. Allora ecco che alcuni sindacalisti democratici dicono no, ma teniamoli fuori, è inutile che togliamo queste barriere, perché sennò anche la New Balance sparisce. La risposta di Barack Obama a questa obiezione è che no, non è vero, non sparirà, potremo continuare ad aumentare il business perché imporremo delle regole che aumenteranno il costo del lavoro in questi altri paesi e dunque alla fine i conti torneranno. Ecco, qual è stato il coniglio che Barack Obama ha tirato fuori dal cappello? Sentiamo la dichiarazione del presidente della Nike. I'm proud to say if the Trans-Pacific Partnership is ratified, Nike will accelerate our efforts to begin advanced manufacturing here in the United States. Una notizia, in questa dichiarazione il presidente della Nike dice che se il TPP sarà approvato, dunque se ci sarà questo accordo commerciale, loro si impegnano ad assumere 10.000 nuovi dipendenti negli Stati Uniti. Beh, diciamo, non è una grandissima cifra considerando le dimensioni dell'azienda, vi dicevo il 56% del fatturato all'estero, 88 miliardi di fatturato, però comunque ecco che nel momento in cui ci sarà l'accordo commerciale la Nike si sentirà rassicurata e dunque promette di assumere queste nuove 10.000 persone. Resta anche il simbolo della grande azienda che opera su scala globale, perché la Nike, voi la conoscete tutti, è nata nel 1971, il logo, lo swoosh, che in Italia abbiamo soprabbinato il baffo, è stato disegnato da una studentessa di grafica alla Portland University. Pensate che ha portato una fattura di $35 al fondatore Phil Knight. E poi lo slogan Just Do It. Lo slogan Just Do It forse molti di voi non lo sanno, ma viene da un creativo che si stava sforzando, stava cercando di capire che cosa possiamo fare per cercare di dare questa idea del farcela, del portarsi in avanti. E dice, mi è venuto in mente la storia di quest'uomo che era stato condannato a morte per vari omicidi e a un certo punto, spazientito da certe perdite di tempo, dice let's do it. E dunque il creativo Dan Whedon si è ispirato proprio a questa frase e l'ha cambiata leggermente, invece di let's do it ha messo just do it. Ed è nata così, è nata in questo modo. Il resto poi è storia, vedremo se questa storia continuerà, però ecco che anche lei, anche la Nike, guarda al futuro, guarda un mercato globale, ha bisogno di un mercato globale, e dunque Barack Obama e Nike insieme, e come diceva il presidente americano, just do it ai suoi compagni di partito, datemelo questo fast track, di modo che si possa andare in avanti e non restare fermi. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!